50 domande su Gesù. Che cosa dice il Vangelo di Giuda? Fra i diversi Vangeli apocrifi che appaiono menzionati dai padri e dagli antichi autori ecclesiastici, si trova quello denominato Vangelo di Giuda. Di questo Sant'Ireneo, nel suo trattato contro le eresie, scrive: altri dicono che Caino proviene dalla suprema potenza e confessano che Esaù, Core, i Sodomiti erano tutti della stessa razza. Perciò, pur essendo combattuti dal Creatore, nessuno di loro ha ricevuto alcun male. Infatti Sofia trascinava via da loro verso di sé ciò che le apparteneva. Dicono che Giuda, il traditore, fu molto bene a conoscenza di tali cose. E poiché era il solo che fra tutti sapeva la verità, compì il mistero del tradimento. Affermano che per mezzo suo furono dissolte tutte le cose terrene e celesti. E come prova di ciò adducono una loro invenzione che essi chiamano il Vangelo di Giuda. A lui alludono anche Sant'Epifanio e Teodoreto di Ciro. Dato che Ireneo scrive la sua opera nel 180, il Vangelo di Giuda dovette essere scritto prima di questa data, probabilmente in greco, fra il 130 e il 170. Della setta dei Cainiti non conosciamo altro che quello che ci dice il testo di Ireneo. Non si sa se era un gruppo indipendente o parte di una setta gnostica più ampia. Molto recentemente è stato scoperto in Egitto un codice del IV secolo che contiene un testo in copto del Vangelo di Giuda. Il codice contiene anche altri tre scritti gnostici. Con questa nuova scoperta sappiamo che il Vangelo di Giuda raccoglie una supposta rivelazione di Gesù a Giuda Iscariota 3 giorni prima che si celebrasse la Pasqua. Come nel caso del Vangelo di Maria, si veda la domanda corrispondente, si tratta di un'opera senza alcun valore storico che utilizza il nome di Giuda per trasmettere istruzioni segrete agli iniziati della setta. Dopo aver menzionato che Gesù esercitava il suo ministero terreno facendo miracoli e mostrandosi a volte di fronte ai suoi discepoli nella forma di un bambino, riporta un dialogo fra Gesù e i suoi discepoli. Gesù ride di quello che fanno, come il fatto di rendere grazie sopra il pane, ed essi si arrabbiano. Giuda è l'unico che reagisce bene di fronte a quello che vuole Gesù, che gli dice: io so chi sei e da dove provieni. Tu provieni dal regno di Barbelo e io non sono degno di pronunciare il nome di chi ti ha inviato. Barbelo è la prima emanazione di Dio nelle cosmogonie gnostiche di tipo setiano. Seguono altri incontri e dialoghi dei discepoli e di Giuda con Gesù, in cui si trattano complicate questioni cosmiche. E alla fine Gesù dice a Giuda: tu sarai superiore a tutti, giacché tu sacrificherai l'uomo di cui sono rivestito. Lo scritto termina dicendo che Giuda ricevette denaro dagli scribi e lo consegnò a Gesù. Questo nuovo testo ha valore soltanto per le nostre conoscenze sullo gnosticismo del secondo secolo, ma da un punto di vista storico non aggiunge niente su Gesù e i suoi discepoli che non si sappia già dai Vangeli. Soprattutto esso, come gli altri che sono stati scoperti nel secolo passato, conferma la veridicità delle informazioni che Ireneo, Epifanio e altri scrittori antichi ci hanno trasmesso sui gruppi gnostici.